potessi dire che Duca non sapesse, se potessi vedere che Duca non ci fosse, se sapesse dicesse che Duca non potesse, che le castano buone sono sempre le stesse. Se potesse dire che Duca non sapesse, se potesse vedere che Duca non ci fosse, se sapesse dicesse che Duca non potesse, che le castano buone sono sempre le stesse. Genuflettersi al cospetto di qualcuno che è importante, importante per qualcuno ma per qualcun altro niente, apparentemente assente, osservo dietro un angolo, la penna sopra il foglio, il tempo dentro il pendolo, il mondo che distruggono, le parti si spartiscono e sono sempre in pochi quelli che poi ci calpestano. Potere repressivo che si scaglia sui popoli, la prevaricazione non ha razza né scrupoli, soggioga le menti dalla stanza dei bottoni, arriva per la strada sabotando le emozioni naturali positive che ogni picciotto vive, le buone intenzioni si trasformano in cattive, l'odio nel diverso cresce, prevarica l'eccesso, come cazzo andrà a finire? Voglio saperlo adesso in sta terra, dove pure la polvere fatica a venire fuori, la normalità tetra che sopprime i colori di una sana pazzia che ti porto da bambino. È terrorismo genuino, se potessi dire che Duca non sapesse, se potessi dire che Duca non ci fosse, se sapessi dicessi che Duca non potesse, che le castano buone sono sempre le stesse. Se potessi dire che Duca non sapesse, se potessi dire che Duca non ci fosse, se sapessi dicessi che Duca non potesse, che le castano buone sono sempre le stesse. Se potessi dire che Duca non sapesse, se potessi dire che Duca non ci fosse, se sapesse dicessi che Duca non potesse, che le castano buone sono sempre le stesse. Corpo sconosciuto, mente psicolabile, c'è tanta dignità in tutto ciò che è fragile, che gira disperso, respira, confuso, l'animo è sincero e condanno ogni abuso, e ho voglia di chiamarmi e non rispondere, ho voglia di smentirmi, urlo con me stesso quando nessuno mi ascolta, tracciando un percorso conseguenziale a una svolta, vedo il nulla che si affolla, bocche come cessi deglutiscono champagne, silicone, fighe, puzzolenti di Chanel, sogni frantumati da ripetersi di un botto, tagliate runne siter, ho capita stu picciotto. Io sul mio chiddo ca antura ti contava storia, io cacco sti parole sul mio nuovo lenta all'aria, sul mio fora, sul mio rincia, la gente si convinca, capuro quando piove, vidi caroppo scampa, c'è cumore, c'è cucampa, c'è cu arriva e c'è cu arranca, c'è cusura, c'è corrire, c'è cu parra e c'è cu canta. E siamo pagine piene di numeri, numeri pieni di simboli, simboli pieni di immagini, pieni di vicoli e bambini poveri, poveri bimbi nei vicoli, pieni di mobili inutili, poveri bimbi contenti che noi confronto siamo ridicoli. Se potessi vedere che Duca non sapesse, se potessi vedere che Duca non ci fosse, se sapesse dicesse che Duca non potesse, che le castano buone sono sempre le stesse. Se potessi vedere che Duca non sapesse, se potessi vedere che Duca non ci fosse, se sapesse dicesse che Duca non potesse, che le castano buone sono sempre le stesse. Così il cielo di fine estate porta con sé mattini di piombo tra le case popolari, ed io di quella strana quiete ora vado a nutrirmi. C'è una calma di mattonelle rosse e ringhiere lucide nere, una calma di ulivi più vecchia del tempo, ed io che son qui da prima che i monti si alzassero, da prima che il mondo iniziasse a girare, vado in giro senza trovare una collocazione e sono un sogno con le mani e i piedi.